Allora, innanzitutto ho saputo con piacere da Stefano di questo percorso di formazione che state portando avanti e vi faccio i complimenti per questo. Credo che sia una fase in cui è molto importante studiare per tutti, per chi sta nei movimenti, per chi sta nei gruppi attivisti, per chi sta nell'università, per capire che le sfide nuove che ci troviamo di fronte nel contesto della crisi della casa funziona in maniera diversa, hanno bisogno probabilmente anche di lottare in maniera diversa, e quindi è un piacere contribuire per quanto a distanza. Sfide nuove, relativamente nuove, ma sempre più centrali. La finanziarizzazione della casa, quello che osserviamo oggi, il processo di finanziarizzazione della casa, è in gran parte uno dei pezzi di un più grande processo di finanziarizzazione, no? Di trasferimento, di investimento del sistema capitalistico verso i sistemi finanziari, che è un processo che si scatena a partire dalla crisi degli anni 70 e accelera con la crisi del 2007-2008. Nello specifico, la finanziarizzazione della casa viene definita come la penetrazione nei sistemi della casa, nel mercato della casa, nelle politiche della casa, di due cose: attori finanziari e logiche finanziarie. Attori finanziari, ovviamente banche, ovviamente assicurazioni, ma anche imprese, compagnie che sono create specificatamente per investire. I grandi fondi di investimento come Blackstone, BlackRock, Apollo, eccetera, eccetera. I fondi pensione statunitensi, che sono sempre più grandi e sempre più rintracciabili un po' ovunque dove c'è da investire, ma anche compagnie specifiche, proprio create con lo specifico obiettivo di speculare i mercati finanziari come i cosiddetti special purpose vehicle, veicoli con un fine specifico che vengono usati per separare il rischio finanziario dalla casa madre che li crea. Questi attori, nell'entrare nel mercato della casa, portano con sé tutta una serie di logiche, come stavamo dicendo. Logiche vuol dire che cambia il modo di pensare, la maniera in cui si finanzia la casa. La più antica e ancora più consistente dal punto di vista della scala, logica e meccanismo di finanziarizzazione della casa, soprattutto nei paesi del Sud Europa, è stata quella della promozione della casa di proprietà, non attraverso la promozione diretta dello Stato, ma attraverso il sussidio dei mutui, per cui spingendo le famiglie, i nuclei, gli individui a indebitarsi con le banche per acquisire la propria casa. Flusso di debito che ha creato la possibilità poi a sua volta della speculazione attraverso quelle che sono le cartolarizzazioni o securitizzazioni di questo debito, la cui esplosione tra l'altro è quello che ha causato la crisi finanziaria del 2007-2008. Più recentemente stiamo assistendo nel nord e centro Europa, già a partire dagli anni 90, ma nel sud Europa, soprattutto dopo la crisi finanziaria, all'entrata di logiche attori finanziari anche in altri settori, nel mercato dell'affitto, in cui entrano grandi proprietari finanziari che investono proprio in portfolio, no? Di abitazioni da mettere in affitto, grandi attori che comprano abitazioni per pure ragioni speculative o per rivendere a un prezzo più alto oppure per mantenerli vuoti come deposito, diciamo, finanziario, o infine la progressiva entrata di attori e logiche finanziarie nelle politiche della casa, da case popolari finanziate e costruite dallo Stato per essere affittate a prezzi bassi, si passa in Italia alla promozione dell'housing sociale, che è uno strumento nel quale il finanziamento viene in grande parte dagli attori bancari, dalle fondazioni bancarie, e si creano commistioni tra case che vanno sul mercato privato e case che vengono destinate ad attori specifici. In tutto questo, per l'appunto, cambia il modo in cui si finanzia. Lo Stato non interviene più direttamente, ma attraverso la creazione di vari fondi pubblico-privati, entrano per l'appunto in questa promozione attori come le banche. Questo, diciamo, è nel sommario tutte le varie traiettorie possibili, alcune, diciamo, meglio, delle traiettorie possibili alla finanziarizzazione della casa. Quello che credo sia importante mantenere a mente, soprattutto, è proprio come progressivamente attori e logiche finanziarie entrino in tutte le dimensioni della casa, e per cui nello scontro politico intorno alla casa sempre più ci si confronta con attori che non sono locali ma sono transnazionali, quindi con tutte le implicazioni per il conflitto che voi conoscete meglio di me sicuramente, che è su cui state ragionando in questi giorni.